quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. No, non puoi volare basso quando ti chiami Milan. Sinistra, su, giù, centro, fine del mondo, con un giramento che chi vuole fuori, chi è dentro e dentro e fuori TV, non sei niente, ultimo appello per i merdaioli, finitevi la merce che di là non funziona, altro girone, altro regalo, niente caramelle per i leccaculo, che il girone è giusto, ok? Anche molto simpatico, non uso a certe cose. Se l'avesse fatto ed ha sbagliato, prenderà lui le sue decisioni. No, che grazie, chiacchiere. Il distintivo di magistrato non ce l'ha più, fa le chiacchiere, nasconde dietro i tecnicisti perché non ha le immagini di Barani che compie il gesto sessista. Me che Mimo. Che gli accanto, forse perché gli è proprio all'uno e all'altro considerare in quella maniera le donne. È così! Senatore, senatrice, porco maiale! Richiamo all'ordine! Porco maiale! Schifoso! Era Paola Taverna del Movimento 5 Stelle. Porco maiale! Purtroppo Grasso ha un po'. Si è sovrapposta la voce, ma l'accusa di Paola Taverna a chi? A Barani, a Danna, a tutte e due. Porco maiale, schifoso! Poi si aggirava per il Parlamento. Azzozzone! Azzozzone! Mi hanno già richiamato, già soprannominati i Porno Verdini. Sul Fatto Quotidiano così, i Porno Verdini si sono beccati. Pensate che punizione clamorosa! 5 giorni di sospensione dal Senato. 5 giorni. Lo stipendio a posto. Qualche reprimenda, loro dicono, Danna dice, è andato alla zanzara a dire, Grasso è tutto chiacchiere distintivo, sei solo chiacchiere distintivo. Mamma mia ragazzi, che pagliacciata, che pagliacci, che buffoni, altro che zozzoni, buffoni. Ah, per carità, non tutti, se no ti danno del qualunquista. Ma so più buffoni loro che qualunquista io, secondo me. Credo di poterlo dire. I Porno Verdini, 5 giorni di sospensione. Il 13 ottobre, giorno di finale della votazione della riforma del Parlamento, del Senato, saranno lì a votare tranquillamente. Gli zozzoni, i Porno Verdini, zozzoni, buffoni. Va bene, sono le 6:33 minuti. Buongiorno anche a voi, cari ascoltatori. Questa è 24 mattino. C'è Lorenzo Nespoli lì in redazione. C'è il nostro Peter Bescapè che oggi sentiva il Liga, era tutto contento. Dice, non mandava i file perché c'era Ligabue, voleva ascoltare Ligabue, ma vai a lavorare. Vai dalla nostra Rossella Brescia RDS, lì girano le canzoni. O si è ringalluzzito? Ha sentito RDS, credo. Ah no, Rossella Brescia, e si è ringalluzzito. Ma ti pare un po'. Ah, bravo il nostro Peter Bescapè in regia. Abbiamo scoperto i suoi altarini, eh? I suoi altarini. Allora, qui abbiamo due grandi... Oh, che bello! Cioè, per parlare dei porno verdini, io non potevo che avere due splendide donne. La nostra Veronica, che però non è qui, non è qui. Non è qui. Ci piaceva di più in studio. Oggi ti va male. Ci piaceva di più in studio. Oggi sono di nuovo a casa, purtroppo è andata così. E che casa? E che domanda è? Quella del Mago di Oz. No, quale casa? La mia casa, cominciamo subito. La tua casa, no, vabbè, insomma, volevamo farti un po', farci un po' i fatti tuoi. Volevi contestualizzarmi, sono a casa, purtroppo non posso mostrare la mia sobrietà oggi. I'm sorry. Vabbè, niente, vuoi non puoi mostrarla, vuoi descrivercela? No, ti ringrazio, guarda, oggi non abbiamo grandi exploit, il maglione di lana arriva più o meno fino alle ginocchia. Potresti fare una foto e metterla su Twitter. Temo di non essere all'altezza dei porno verdini stamattina. Ma fai una foto, non so. Puoi piantare per favore di istigare subito? Ma istigare cosa? Ho detto fai una foto. È presto, nessuno ce la può fare, no? Dai. E questo lascia giudicare quelli tanto che verranno la foto. Stamattina ti sento già carico a pallettoni misti, non hai bisogno di essere istigato. No, vabbè, senti che il clima si surriscalda e voglio presentare, oltre a Veronica Gentili, anche la nostra... Tu Aurora portami la luce. Questa è nuova, Tu Aurora portami la luce. La nostra Aurora Lussana, volevi sposare anche Francone Battiato, il maestro? No, mi fermavo, ero su Ramazzotti, adolescenziale, ero più su Ramazzotti. Più sì, però no, un grande artista. Un po' più uno che fa Carnazza rispetto a Franco Battiato. Molto mistica, molto ascetica questa intro, quindi buongiorno a tutti e un caro saluto a te Milan, alla nostra splendida pensatrice, giusto? Sì, la Veronica. Sì. Buongiorno Aurora, cara. Ho già colto una puntina di polemica in questa. No, bello. Mi piace. Buongiorno a tutti verdiniani e non. E anche porno verdiniani, va bene. Oh, però alle 6:36 minuti, dai, apriamo il Parlamento, perché qui devo capire subito con le nostre Veronica Gentili e Aurora Lussana. Vado a prendere un caffè, quindi che ne pensate? Che ne pensate dei porno verdiniani? Male, va bene. No, ma pensiamo fondamentalmente, secondo me, al di là, vabbè, del pensiamo, ormai... chi come parli? Plurale maestatis. Noi siamo tante. Non c'è problema a convivere qui dentro, quindi per favore facciamo poca ironia su situazioni già drammatiche, favore. Va bene, cosa pensi tu? Dicevo che secondo me la cosa più grave è il fatto che si permettano di comportarsi in questo modo, perché in questo momento si sentono onnipotenti, questa è la realtà. Per cui non è che io immagino che nei costumi di personaggi in tema come Danna e Barani questo non sia un costume uso, ma penso che in altri contesti si sarebbero dovuti trattenere perché la loro precarietà politica lo avrebbe richiesto. In questo momento si sentono dei gradassoni esattamente, quindi essendo protetti dall'ala verdiniana che su di loro sta come uno scudo, fanno quello che vogliono e si possono permettere se in quel momento gli gira così e quindi sono tesi a mimare la fellazio, chi se ne frega, ma proprio col massimo della Veronica Gentili così tesi a mimare la fellazio, capito? Questo. Poi dopo mi prendono in giro e mi dicono che uso questo eloquio troppo forbito, quindi per favore non lo sottolineare. No, va bene, altrimenti dovrei esprimermi brutalmente esatto, va bene, chiudono tutto. no, per carità, si è capito benissimo, cara Aurora, però 5 giorni, ma non sembra un po' una pagliacciata? Ma che è questa roba? Soprattutto pare le senatrici del PD alla fine li abbiano salvati, però è così, ormai il Parlamento è inutile, è stato il miglior spot. Come appunto, il Parlamento è inutile? Ma sì, c'è Renzi che governa, il Parlamento è inutile. Palazzo Chigi, ma è così, lo statista lì sull'Arno, il fiorentino, ha deciso che il Parlamento e quella roba lì ormai è il luogo sublime del degrado compiaciuto, e quindi il miglior spot per l'abolizione del Senato è quello che sta succedendo in questi giorni in Senato. Il luogo sublime del... com'è che è? Aspetta che me la segno. Luogo sublime, sublime del degrado compiaciuto. Del degrado compiaciuto. Ma mi pare che fosse una frase attribuita a qualcos'altro, ma glielo attribuisco al Senato, va bene? No, va bene, ma senti, no. Ma vorrei sapere una curiosità. Allora, perché l'abbiamo detto varie volte che Aurora Lussana è sposata con un parlamentare, Nicola Molteni della Lega. Ecco, se tuo marito, se per caso tuo marito, mai nella concitazione parlamentare, dovesse, non so, nei confronti... Ma guarda, siccome ho sposato principalmente più con parlamentare un vero maschio brianzolo. Sì? Ecco, che gesti si fanno in Brianza in questi eccola, casi? Nel senso, siccome appunto quei due lì che mimavano la fellazio o una sorta di sodomia nei confronti lì delle senatrici, eccola, rimanda a una frustrazione, a una sessualità non vissuta, non autentica, quindi c'è un gesto di profonda impotenza. Cioè, diciamo la verità, tu invece tuo marito lo soddisfi quindi... Una persona che vive serenamente la sua sessualità non è costretto a quelle robe lì abominevoli nelle aule parlamentari. Quindi lo beccassi mai a fare un gesto del genere? Col mattarello lo aspetti? ma le minga conciate in sci, cioè devi essere proprio conciato capito, male per Veronica, arrivare in Parlamento. Sai capito? Roba, cioè, il romano stretto questo... Tutto chiaro, il romano stretto ce l'ho ho messo Google Traduttore. Dai, era abbastanza chiaro. Non è conciato così. Ripeto, devi avere una profonda frustrazione sessuale o forse una morbosa attrazione nei confronti della bella senatrice 5 Stelle. Ah, può essere. Veronica, è questa lettura anche, magari semplicemente... L'azione che viene da fare è chi mai si è prestato a fare una fellazio al senatore Barani e quindi in quel momento c'è bisogno di rivendicare anni di frustrazioni sessuali. Ah, infatti dici. Ieri me lo chiedevo, ma chi mai... Proprio. Vabbè, adesso non indaghiamo, sarà. Beh, ci sono anche tante professioniste, voglio dire, al mondo. Attenzione, volano accuse pesanti. No, ma nel senso che voglio dire, c'è pieno. Visto che parlate. Porno cos'è? Sapete, cioè, l'origine di porno è proprio il meretricio. Quindi. No, nel senso quello può sempre aver pagato qualcuno, questo sì, può sempre aver pagato qualcuno. Vabbè, insomma, siamo d'accordo che 5 giorni. No, è il fatto che lo scrive porno rimanda a quello comunque. Ma certo, ma la cosa deprimente fondamentalmente è questa, cioè l'idea che in Senato si possa arrivare a questo livello qui, anzi, viene da pensare che sia uno spot pro Renzi quasi, della serie, guarda, siamo stati buoni a lasciarlo aperto in circostanze ridotte perché tanto valeva chiuderlo, visto l'andazzo che ha preso. Vabbè, insomma, tanto 5 giorni ed è tutto a posto e voteranno tranquillamente la riforma. Ma io vorrei, vorrei capire. Il Parlamento non serve a niente, però ancora le sue cosucce le deve fare per finire di non servire a niente. È necessario che nei giorni debiti siano comunque tutti lì pronti e rigorosi. Vorrei far notare intanto che mentre noi chiacchieriamo qui, il buon Berlusca e il buon Salvini, cara Veronica Gentili, si sono visti in gran segreto, è talmente segreto che oggi è su tutti i giornali, tutti proprio una pagina. Ma perché fanno queste cose segrete, scusa Aurora? Ma non c'è bisogno, tanto poi si vengono a sapere, cioè perché devono incontrarsi in segreto? Ma Berlusconi potrà incontrare Salvini come quando vuole. Ma perché in segreto? Cioè, cosa vuol dire? Si saranno incontrati, cos'è, domenica sera... c'era il Milan, no? Quando è che ha giocato? Sì, ascolta. Guarda come subito dice. Ascolta, Aurora, io capisco il tuo fine umorismo. Bergamasco mischiato con. Però un inciso va fatto, purtroppo. Perché l'unico momento di godimento, e tu sai bene che il calcio non è proprio tra le mie priorità della vita. Da pochi, è stato capisci, quello. È il Napoli. Lo so, sei una poveraccia. Il Milan era proprio attivo. Ma non ti interessa, ma che ti frega a te? Ma che ti frega te? Adesso studio il calcio. Ma solo per il gusto di vedermi soffrire. Ma vai che sei veramente contenta tanto. Bastard inside. Allora, infatti dice Repubblica che su una sola cosa sono d'accordo. Mihajlovic, che Veronica Gentili vi spiegherà chi è. Mihajlovic è... È evidente, però poi in separata sede tengo un seminario. L'allenatore del Milan non è da Milan. Questa sarebbe l'unica cosa sulla quale Aurora sarebbero d'accordo, Berlusconi e Salvini. Ma no, vedrai che va come deve andare anche sulle amministrative a Milano e vedrai che insomma poi si Ma chi candida? Dai, può fare il sindaco di Milano. Esatto, pure. Chi candida? Mihajlovic. Potrebbe essere Mihajlovic, tanto tra un po' si libera la panchina e lo mettono candidato sindaco. Ma potrebbe... Mihajlovic giocava con la Lazio, sì. Sì, giocava. No, vedi, giocava, sì, giocava. So tutto. Forse ha giocato anche con la Lazio, sì. Penso, sì. Ma Aurora, no, dai, secondo te la quadra sul sindaco di Milano? Dai, facci un'anticipazione. Ma chi ma metteranno? No. Sì, chi metteranno? Ma sì, adesso si mettono lì, c'è Berlusconi, c'è Maroni, c'è Salvini, vedrai che trova la soluzione su Milano. Vabbè, tu chi vorresti? Insomma, dai, facciamola così. Io vorrei un sindaco che metta al primo posto i milanesi. Beh, vabbè, no, i Comaschi deve mettere al primo posto il sindaco di Milano. Ma dai, su, ma cosa vuol dire? Ma scusa, ma chi dovrebbe mettere al primo posto il sindaco di Milano? I romani. Facciamo un appello, per favore. Se facessimo un sindaco di Milano che mette al primo posto i romani, capito? Noi saremmo contenti. Vabbè. Ma no, dai, su, adesso Pisapia ha fatto 5 anni il sindaco. Vabbè, ce l'ha il nome, ma non ce lo vuole dire. Veronica, ma no, va bene tutto, ripeto, fuorché ci sia un nome autorevole per la Milano, che insomma. Va bene. 5 anni di Pisapia. Va bene. 5 anni di Pisapia, voi dovete ringraziare il cielo. Guardate come siamo combinati noi, per favore. Attenzione, no, Ignazio Marino. Guarda che stai attenta, che ha detto che adesso querela. Adesso querela. Ma no, non querela, perché adesso è un anno che lo difendo praticamente da sola. Quindi ci no, te. Querela in giro. Chi mette in dubbio? Però voglio dire, diciamo che soprattutto chi lo difende, chi a oltranza ha cercato di dire che questo accanimento, il linciaggio, non hanno senso, diciamo che quando poi giri, esci un attimo di casa e lo hai difeso 2 minuti prima, dici santo cielo benedetto. Perché l'ho difeso? Vabbè, andiamo al traffico, beve, perché poi beve? Cos'è che fa? Quanto beve? Stavo guardando gli scontrini. Eh sì, una media di 900 euro al mese in ospedale, in ristorante. Perché mi è venuto in ospedale? C'è il traffico. Mi sa che è il momento del traffico, andiamo al traffico, va. Amore, ma che fai? Sai benissimo che a quest'ora io voglio solo il traffico. Milan, finalmente te l'hanno dato l'Oscar. Uè Milan, buongiorno. Senti un po', ma tu quando la molli sta poltrona la mattina, facci sentire una tua collega. Togli il Super Attack e viva l'Italia. Alino e Giannino, e come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi... Signor Milan, dal prossimo sabato non vai più a fare weekend largo, devi fare weekend stretto, e quindi non finisce venerdì 24 mattina, ma il sabato mattina, va bene? Ma va bene cosa? Ma quello che dice il Super Attack? Ma voi, adesso devo fare una confessione, voi non sapete che io non vedo l'ora di cambiare vita. Trovatevi un modo qualsiasi che non sia dare via parti che nessuno vorrebbe di me per guadagnare quello che guadagno, ma anche meno, e vivere serenamente e non svegliarmi alle 5 del mattino per venire qui. Ho fatto questa confessione. È un appello? Sì, però esatto. Cosa potrei fare nella vita? Ditemelo al 3... di Roma. 349-238-6666 Milano. No, scusa, si lavora molto di più a fare il sindaco rispetto a quello che faccio io. Ma dipende come lo fai, Milan. Scusa, Aurora, facciamo una operazione. Però se magna. Proponiamo Milan come sindaco di Milano, sostenuto bipartisan. Allora, io devo dire questo. Ad Aurora sì, ecco, l'ho fatto. Lo sapevo. Ad Aurora Lussana, soprattutto. Tutto perché so che la faccio arrabbiare. Tu che ci faresti con 11 milioni di euro? 11, ti dico questa cifra, 11 milioni di euro. Tanto avremmo pagato, usiamo il condizionale, avremmo pagato il riscatto di Vanessa e Greta, ve le ricordate, rapite in Siria? Vanessa e Greta. No, calmati. Pensa fino a 5, cara Aurora. Pensa fino a 7. pensa fino a 11. Ma il governo sostiene che non ha pagato nessun riscatto, quindi noi crediamo a Gentiloni, il nostro ministro degli esteri. Brava, ecco, questa è una dichiarazione per che esempio. Non ha mentito al Parlamento, non ha mentito agli italiani, oh, perché non c'è stato alcun riscatto per liberare le due squinze lì, le due belle fanciulle. Va bene, va bene. No, squinze, no, povere. Povere. Eccolo, eccola Veronica, hai rotto l'incantesimo, era andata bene fino adesso. Andato tutto liscio. Ma no, allora, secondo me queste sono polemiche veramente strumentali. Certo, guarda se mi tocca a me difendere il governo Renzi. No, per carità. Non difendi, difendi Vanessa e Greta. Ma serve un processo. Vanessa e Greta devono dire la verità in un processo. Vanessa e Greta sono andate lì, per carità, a loro rischio e pericolo, sono sempre situazioni abbastanza limite. A tuo rischio e pericolo vuol dire che c'è un'assicurazione e se ti succede qualcosa paghi te. Ecco, me l'hai scatenata. Poi nel momento in cui le situazioni si verificano e succedono queste cose, poi lo Stato italiano si trova in una situazione veramente difficile e qualora si fossero comportati altrimenti, cioè se non fossero tornate indietro, sarebbe stato insomma quanto traumatico per tutti, per cui in quelle situazioni, al netto del fatto che io non so chiaramente come sono andate davvero le cose, se sia stato così o meno, ma sia sull'omertà, qualora fosse stato, credo che sia uno di quei pochi casi in cui l'omertà un suo senso ce l'ha, perché ci manca anche da un punto di vista proprio così della chiarezza andare a dire che sono state pagati un riscatto di quel tipo, così diventa proprio un incentivo violento. Ed è quindi appunto. D'altro canto mi rendo conto che sono situazioni veramente difficili, un po' come tutte le volte che ci sono i mezzi riscatti. No, ma è chiaro, ma è chiaro. Allora, io non credo a questa fonte, cioè non lo so, ma sono convintissimo che abbiamo pagato. Non c'è altro modo per riottenere per portare indietro a casa queste persone. Cioè, non... È possibile, certo. Ma, che ma quale altro modo c'è? Perché, anni, perché le darebbero indietro? Sono scusa. Lì è molto, molto difficile dire, vabbè, dai, lasciamole lì, no, chi se ne frega. Cioè. Ma è chiaro, Aurora lo avrebbe fatto, per esempio. Ma va. Poi ti restano sulla coscienza la coscienza. La coscienza, Aurora Lussana, la coscienza. Scherzo. Che Aurora non ha la coscienza. Scherzo, dai. Ma no, vabbè, quando le abbiamo viste lì nel video, tutte dimesse, spaventate, ve lo ricordate, no? Sembravano veramente sotto minaccia, quindi. E ci mancherebbe, siamo tutti contenti che siamo tornate, una Bergamo, una Varese, a casa loro. Infatti una Bergamo. Sì, ci mancherebbe che c'è questo ristorante che vabbè che potrebbe far diventare addirittura un centro di accoglienza, non so se ci riuscirà per i suoi amici siriani, quello che no, siamo tutti contenti che fare sono... queste imprudenze sono gente compaesana tua. Vedi, è bergamasca. Non state mica delle pischelle napoletane. No, ma la loro immensa generosità nei confronti degli islamisti che combattono in Siria è rispettabile, ma non è che deve essere insomma spese degli questo italiani, è vero, questo è vero. Però io devo chiudere, c'è chi mi propone fai il difensore centrale del Milan. Potrebbe essere per cambiare lavoro idea. O chi mi dice di andare a fare il Magut. Sai il Magut è cos'è, Veronica? È faticoso fare il Magut. Lo so, è faticoso. Dopo mi tocca iniziare a lavorare. Ma voglio chiudere così. Ma Magut che ti ascoltano vedi? Una radio troppo. No, la radio della Confindustria. Ma è pieno. Una volta mi ha scritto una volta mi ha scritto un escavatorista. Abbiamo chiamato, ha fatto bello, 40 sì, sulla ruspa, sulla. Del mestiere, ma non parlate in cirillico. Cos'è il Magut? Il Magut è il sanscrito. Sì, il muratore, dai, il muratore. Il Magut, il lavoratore. Ecco. Allora, però devo chiudere così. C'è una pagina su il secolo XIX su WhatsApp. Dimmi che status hai e ti dirò chi sei. Posso dire il vostro status su WhatsApp? Non lo so neanche. Allora, Aurora Lussana è disponibile. E cosa ridi? Ma Veronica Gentili, il suo status è sparisci, sgorbio, sparisci. Ma vedi, vi rendete conto che classista, che sessista, umano. Che razzista? Ma sei vergogna. Queste sono citazioni cinematografiche. Vergogna. Ma perché io ancora parlo con te? Ma perché? Vergognati. Non c'è tempo per la ricetta. No, ce la dai in 10 secondi, Aurora? Ah, faccio il risotto con i filetti di pesce persico. Ah, così. Buono. Risotto con Cosa c'hai su WhatsApp? Io su WhatsApp, sai che non lo. D'altra parte è così. Questo è il mio status. D'altra parte è così. Vi devo salutare. Ciao. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora siamo qui, sono le 7:19 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali, poi dalle 8:15 tornerà con noi Oscar Giannino, sapete questa è la novità con il nostro Attenti a noi due. Tra l'altro avremo anche un paio di ospiti, il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Sapete che è franata ancora una parte della Sicilia, un'autostrada, adesso pare che sia bloccata in tre la Sicilia. E vogliono fare il ponte sullo stretto. Avremo anche il sindaco di Olbia, quello dove hanno dovuto abbattere un ponte perché era stato ricostruito uguale al passato, male, male, e quindi fungeva da tappo, faceva da tappo al deflusso dell'acqua e si rischiava un'altra tragedia come 2 anni fa. Ah, povero territorio italiano. Ne parleremo dalle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. È martedì 6 ottobre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sull'accordo di libero scambio tra USA e paesi del Pacifico, questo è il titolo di prima pagina, Stati Uniti, Giappone e altri 10 stati firmano questo storico patto che toglie i dazi su 18.000 prodotti. La notizia invece che ha il Corriere della Sera in prima pagina, solo il Corriere, è questa. L'Italia bombarderà l'ISIS. I Tornado, cioè gli aerei militari italiani, sono pronti ad azioni in Iraq. Cambiate le regole di ingaggio della nostra partecipazione. Dunque gli italiani bombarderanno l'ISIS. A proposito di esteri, torna la polemica sul presunto pagato riscatto per Vanessa e Greta rapite in Siria, le due volontarie di una ONG. 11 milioni di balle per liberare le pacifesse, così le chiama Libero in prima pagina, mentre il giornale: Renzi ha pagato i terroristi, 11 milioni a chi ci vuole morti. Smentisce il governo, ma fonti siriane dicono che questa sia la cifra pagata, 11 milioni di euro. Per il Messaggero, in pensione prima con il prestito, sono ovviamente ipotesi in vista della legge di stabilità. Repubblica invece: senatori sessisti, soltanto 5 giorni di sospensione, così il Fatto Quotidiano. Anche il PD salva i porno verdini. Mentre La Stampa, e voglio partire da qui, ha in prima pagina questa notizia che riguarda la Francia. Sono immagini che hanno già fatto la storia, hanno fatto il giro del mondo. Air France taglia 2.900 posti, manager aggrediti in azienda. Le immagini che forse avete visto, hanno fatto il giro del mondo, sono dei manager, in particolare il direttore delle risorse umane, che dopo aver comunicato ai sindacati imbufaliti il taglio di 2.900 posti di lavoro, è stato letteralmente, insieme a un collega, aggredito, e quindi lo vedete con la camicia a brandelli, uno dei due a torso nudo, che viene messo in salvo dall'intervento della sicurezza e poi della polizia. La rabbia dei lavoratori per Italia, aggrediti manager di Air France. Paolo Levi, a pagina 2 e 3 della Stampa, racconta: aggrediti, insultati, con la camicia ridotta in brandelli, in fuga da una folla inferocita pronta a linciarli. Nella Francia, abituata anche alle più violenti proteste sindacali, dai sequestri lampo dei manager fino ai roghi a opera dei tassisti in lotta contro le berline di Uber, scene così non si erano mai viste. Alle 10 del mattino centinaia di lavoratori fanno irruzione nella sede centrale di Air France KLM, urlando slogan contro il piano di tagli da 2.900 posti. Vergogna, questa è casa nostra, gridano gli scioperanti, chiedono il ritiro immediato del provvedimento. Una compassata riunione dei colletti bianchi si trasforma così in una partita di rugby. L'amministratore delegato Frédéric Gaget capisce che c'è poco da scherzare. Prima degli altri riesce a mettersi in salvo, protetto dal muro dei guardaspalle. L'orda umana si riversa così su Xavier Brosetà, capo delle risorse umane, drammaticamente incastrato nella folla. Volano insulti, spintoni, botte. Insieme al collega Pierre Plissonnier prova a divincolarsi, ma il branco inferocito li trattiene, li strattona per il collo, si aggrappa violentemente al loro blazer di fresco lana. Giacche, camicie, colletti, bottoni, tutto finisce in brandelli e sorretto da due gorilla del servizio d'ordine a torso nudo, Brosetà riesce miracolosamente a liberarsi. Nelle immagini trasmesse in mezza Europa lo si vede mentre tenta la volata verso l'uscita prima di cadere rovinosamente a terra sotto la pioggia battente. Beh, sono scene incredibili che certo testimoniano una grandissima tensione, ma anche di violenza fisica impressionante, come racconta anche Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, pagina 13. L'immagine del direttore delle risorse umane, Xavier Brosetà, che si mette in salvo dal linciaggio scavalcando a torso nudo una palizzata, la cravatta ancora al collo ma senza la giacca, la camicia strappata poco prima, passerà probabilmente alla storia. E i poliziotti dall'altra parte del cancello lo aspettano, lo incitano, salti su, mentre un collega lo aiuta spingendogli in alto le gambe. Bisogna far presto prima che arrivino di nuovo i dipendenti imbufaliti che lo hanno già spintonato, picchiato e denudato. In queste immagini, scrive Montefiori, alcuni vedranno lo stato del capitalismo all'inizio del XXI secolo, altri più banalmente la violenza inutile di alcuni estremisti, per adesso senza nome, che a quanto sembra neanche sarebbero toccati di persona dal piano di ridimensionamento denunciato dall'azienda. Certo, sono immagini, foto o immagini, se le avete viste in video, che fanno davvero impressione. Beh, come detto, alcuni giornali invece riportano in auge la polemica sugli 11 milioni, questa sarebbe la cifra, bisogna usare il condizionale, versata per liberare Vanessa e Greta, le due cooperanti che erano andate in Siria e poi erano state rapite. Si deve usare il condizionale perché la versione ufficiale viene dalla Siria, dove il tribunale islamico di un movimento estremista, Nureddin Zenki, ha condannato tale Hussam Atrash, descritto come uno dei signori della guerra locali, che avrebbe contribuito al rapimento di Vanessa e Greta e che però si sarebbe tenuto il riscatto, 11 milioni di euro per l'appunto. Ora, l'attendibilità, secondo il governo italiano e il Ministero degli Esteri, di questo sedicente tribunale islamico è nulla. Però la polemica torna. Vanessa e Greta riscatto da 11 milioni di euro. Tutti i giornali dedicano, Libero e Il Giornale tornano con la veemenza che avevano utilizzato già all'epoca, a dire Renzi ha pagato i terroristi. Maurizio Belpietro, direttore di Libero, scrive: balle a noi, schiaffi ai marò, Gentiloni ora si deve dimettere, anche se la Farnesina nega. Per Il Giorno invece, il quotidiano Il Giorno, non sono 11 ma più di 20 i milioni versati nel gennaio 2015, quando Greta e Vanessa furono liberati. Una fonte, scrive Il Giorno con Alessandro Farrugia, pagina 6, una fonte ci disse sono stati pagati più di 20 milioni di dollari, però non di euro, di dollari. Non potevamo più aspettare, era in gioco la vita dei due ostaggi. Questa è la fonte citata dal Giorno il 15 gennaio 2015 e che ora torna in qualche modo al centro della polemica. A proposito di vicende che riguardano quelle zone, oggi il Corriere della Sera ha appunto questa notizia in prima pagina che merita di essere messa in risalto, e cioè: l'Italia bombarderà l'ISIS. Franco Venturini, a pagina 3, racconta: dalle prossime ore tornado italiani in azione in Iraq. I tornado italiani che partecipano alla coalizione occidentale contro l'ISIS avranno nelle prossime ore l'incarico di svolgere missioni di bombardamento nelle zone dell'Iraq, selezionate di comune accordo col comando americano. Una presenza dell'Italia che compie così un salto di qualità che il Corriere aveva auspicato il 9 e il 28 settembre. La decisione iniziale di partecipare alla coalizione è poco meno di un anno fa. Quattro tornado del sesto stormo di Ghedi furono inviati in una base in Kuwait, al pari di un aereo cisterna KC-767 e di alcuni droni Predator. Tra piloti e personale di supporto l'impegno fu allora di 140 uomini. Ma ora la portata della partecipazione cambia radicalmente con il via ai bombardamenti. Dunque anche l'Italia, scrive il Corriere, bombarderà l'ISIS in Iraq. Veniamo in Italia. Vi segnalo che c'è ancora la polemica su Ignazio Marino, le sue spese. Lui dice: attenzione, querelo, sono pronto a querelare. Ma tutti i giornali citano le spese, gli scontrini, le ricevute dei ristoranti. Quanto spende Marino? Libero fa la cifra esatta. Quanto ha speso in 2 anni in ristoranti? La cifra esatta è 21.000, vai a trovarla la cifra esatta, se uno la perde poi la può fare figuracce. Eccola qua, 21.789,43 euro, una media di 907 euro al mese in ristoranti. Quanto lavora Marino alzando il bicchiere? Questo è il titolo di Libero. Il sindaco ha speso in 2 anni oltre 21.000 euro in ristoranti. Tra l'altro, sia Libero che il giornale raccontano che tra i conti c'è anche un vino da 80 euro, una bottiglia di champagne e 2 bottiglie di Capo Martino da 80 euro l'una, anche questa, un Sauvignon anche da 93 euro. Se sei un sindaco di sinistra puoi scroccare vini pregiati. Questo è il titolo del giornale, mentre il giorno dedica 2 pagine su esposti, trasferte, cene di lusso, Marino sotto assedia, ora querelo. Questa è la risposta di Marino. Va bene, andiamo all'articolo che ci fa tenere le mani sul volante. E più mani sul volante di questa cos'è? Corriere della Sera, a Milano una multa ogni 9 secondi. Questa è la media. Gianni Santucci, a pagina 25 del Corriere, racconta: a voler giocare coi numeri, a Milano viene staccata una multa ogni 9 secondi, cioè 388 multe l'ora, 9.300 sanzioni al giorno per infrazione al codice della strada. È vero che siamo distratti, cari cittadini, è vero che siamo indisciplinati, ma voi che ci state ascoltando adesso tenete le mani sul volante, assolutamente, perché l'idea di quest'articolo è: non è che i comuni usino le contravvenzioni anche per fare cassa. E chi lo sa, intanto la cifra è questa: a Milano una multa ogni 9, 8, 7, 6. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Sentire venire il giornale da Alessandro Milan la mattina è veramente una specialità. Alessandro Milan, il peperoncino piccante dell'informazione. Il peperoncino piccante. Va bene, caro ascoltatore. Grazie, mandateci le vostre sigle nella nostra segreteria telefonica che risponde allo 0246524492. Allora, prima di tuffarci nella politica, che oggi racconta soprattutto di robe porno, come sapete, mi interessa leggere questi 2 articoli. Il primo riguarda le pensioni, o meglio non le pensioni, un sussidio europeo, sulle pensioni ci arriveremo più tardi, che è proposto dal ministro dell'economia Padoan. Un sussidio europeo per aiutare tutti i disoccupati. È la proposta che il ministro dell'economia ha lanciato, una proposta che lo stesso ministro dell'economia, racconta il Messaggero con David Carretta, pagina 3, ha definito controversa. Ha fatto un'intervista al Financial Times, Padoan, e prima ancora di chiudere la trattativa sulla flessibilità di bilancio, il ministro all'economia Padoan lancia una nuova iniziativa che rischia di creare tensioni tra i partner della zona euro. È un sussidio di disoccupazione a livello europeo per fronteggiare i futuri shock economici nell'Unione Economica e Monetaria. È una proposta che sarà presentata formalmente in un discorso oggi all'Università del Lussemburgo. Ha detto Padoan: la zona euro non è solo moneta, banche, politica di bilancio, ma anche politica di crescita e di lavoro. E dunque ecco la proposta di un'idea per sua stessa missione controversa. L'Italia cercherà di convincere i nostri partner che è utile, ha detto Padoan, un sussidio comune di disoccupazione che non è un'idea nuova. L'economista Luigi Zingales la promuove da tempo. Già nell'epoca dell'Ecofin l'Italia aveva promosso un dibattito tra i ministri delle finanze di questo genere. La proposta elaborata dai tecnici del ministero prevede un sussidio che possa durare tra i 6 e gli 8 mesi, garantendo tra il 40 e il 50% dello stipendio dei lavoratori licenziati. Un sussidio che sarebbe finanziato da un fondo comune europeo. Per convincere i paesi del nord, che sono i più ostili alla condivisione dei rischi, le risorse verrebbero assegnate sulla base della dinamica della disoccupazione e non unicamente sul suo livello. Questa è la proposta, ovviamente in estrema sintesi. Chissà se farà breccia, è l'idea di Padoan. C'è un'altra proposta, questa mi piace di più. Ah, quanto trovo assolutamente giusta, sacrosanta direi, e quindi non si farà mai. Comunque, Sergio Rizzo racconta a pagina 6 del Corriere della Sera che è allo studio del governo un'ipotesi di questo tipo, riguarda i vitalizi dei politici. E al netto di qualsiasi demagogia e qualunquismo, si pensa a una sforbiciata di 100 milioni con ribassi fino al 50% per 2000 politici, ma mica perché siamo dei censori o li consideriamo brutti, sporchi e cattivi e quindi dobbiamo tagliargli il vitalizio, semplicemente facendo un'operazione banale: basare il nuovo vitalizio sul sistema contributivo e non più sul sistema retributivo come sono stati calcolati i vitalizi in passato. Che si tratti solo di un'idea, scrive Rizzo, o che la cosa sia destinata ad assumere la forma di un nuovo piano per le pensioni in vista della legge di stabilità, è ancora un dilemma da sciogliere, ma di sicuro all'INPS i calcoli si stanno facendo. E sono calcoli per vedere come si possa introdurre un principio di equità attuariale. Principio sacrosanto che dovrebbe ridurre il divario attualmente esistente tra il vecchio metodo di calcolo retributivo, cioè basato sullo stipendio percepito dal lavoratore, e il nuovo sistema contributivo, quello cioè che tiene conto esclusivamente dei contributi versati. E questo, a quanto pare, potrebbe valere per i vitalizi. L'ipotesi è di intervenire con il ricalcolo attuariale sui vitalizi di ex parlamentari ed ex consiglieri regionali che hanno un importo superiore ai 63.700 euro lordi all'anno, cioè circa 5.300 euro mensili. Le persone coinvolte sarebbero 2.000 e i loro assegni, secondo le stime, potrebbero subire tagli fino al 50%. Si tratterebbe di un'iniziativa senza precedenti, scrive Rizzo, che riguarderebbe persone come Massimo D'Alema, Gianfranco Fini, Luciano Violante, Carlo Vizzini, Walter Veltroni, Achille Occhetto, Beppe Pisano. Il fatto è che mai il governo è intervenuto con una propria proposta su una materia di competenza esclusiva del Parlamento, dove vige ancora la rigida e anacronistica regola dell'autodichia, cioè si fanno le leggi che valgono per loro stessi, questa per tradurla brutalmente. Ma ora le condizioni potrebbero essere diverse, soprattutto se il taglio dei vitalizi rientrasse nell'alveo di un intervento più generale sulle pensioni retributive ricche. Dunque anche i vitalizi, come le pensioni retributive ricche, nel mirino del governo, staremo a vedere. Intanto che succede in Parlamento? Succede che i porno verdiniani, come sono stati definiti dal Fatto Quotidiano, quelli che hanno fatto i gestacci, Barani che ha mimato una fellazio nei confronti di una senatrice, oppure Danna che ha mimato il gesto più volgare di portarsi le mani entrambe convergenti verso il membro, vi piace questa descrizione molto edulcorata, sono stati squalificati per 5 giorni, squalificati, espulsi per 5 giorni, vuol dire che praticamente nulla, cioè non mantengono lo stipendio, stanno 5 giorni senza poter entrare al Senato a votare, ma voteranno il 13 ottobre, giorno in cui si voterà definitivamente la riforma, quindi il voto finale decisivo è salvo da parte loro. Ovviamente polemiche per questa pena light, il PD non si oppone, scrive il Corriere, c'è l'imbarazzo delle senatrici, incivili e volgari, sospesi i verdiniani Danna e Barani, ma solo per 5 giorni. Danna fa un'intervista intervistato da Tommaso Ciriaco su Repubblica, dice: sono stato condannato in contumacia senza uno straccio di video. Per la verità, fa notare che c'è questo video postato da senatori del Movimento 5 Stelle. Io l'ho detto anche alla Boschi, non c'entro un beep in questa vicenda. Comunque ricordavo alla senatrice Lezzi che non è un'orsolina, e lei era diventata un'orsolina da un minuto all'altro, ma anche lei ha compiuto un gesto volgare contro di noi. Va bene, va bene, va bene così. All'asilo Mariuccia, all'asilo Mariuccia, scene che in quinta elementare forse Mauro Meazza già non faceva più, avendole sospese in quarta elementare. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, ti ringrazio. Come mai tutta questa cortesia nei miei confronti, tutta questa degnazione? Ma come sempre, ma come sempre, perché? Mi sembra strano, forse per smussare questo accostamento tra i gestacci e le e altre vicende. Vabbè, comunque, senti, vorrei tornare un attimo, vorrei richiamare la tua attenzione, come dicono quelli bravi, su questo accordo di libero scambio tra Stati Uniti e altri paesi del Pacifico. Ti spieghiamo a pagina 3 come equalmente questo accordo sia importante per i 12 paesi coinvolti, ma anche per gli effetti che potrebbe avere nelle trattative con l'Unione Europea, cioè Stati Uniti Unione Europea. Leggi doverosamente, dovrei dire doverosamente, sul Sole 24 Ore tutti i dettagli nelle pagine 2 e 3. Oh, poi ti voglio dire che giovedì daremo con il Sole 24 Ore un volumetto, un instant book, come si dice, sul Jobs Act. Instant book sul Jobs Act, già poi Angelino chissà cosa mi dice. Però per spiegare tutte le vicende della riforma, che come sai ha concluso il suo iter, adesso mancano ancora le parti attuative. Tra l'altro ieri, se vai a vedere su norme e tributi nella prima pagina odierna, ieri l'INPS ha diffuso le istruzioni, la sua circolare, proprio sulla cassa integrazione del tipo straordinario. Quindi c'è un importante momento di aggiornamento anche per te, caro Alessandro. Benissimo. Anche per te. Hai una Volkswagen? Non hai una Volkswagen. No, però poteva capitare. Puoi apprendere dalle pagine di finanza che la Volkswagen richiamerà 8 milioni di auto in Europa, cioè ci sarebbero 8 milioni di auto coinvolte per la vicenda appunto del software, come dire, addomesticato per in fase truccato, di test. Possiamo dire, ecco, truccato. Spero che tu ti sia messo ancora la cravatta anche oggi. Certo, foulard e cravatta. Foulard e cravatta, molto bene. Allora, in questa versione così dandy puoi adeguatamente leggere le pagine dedicate alla riforma fiscale, perché oggi appunto concludiamo, parliamo di internazionalizzazione, cioè del decreto sull'internazionalizzazione, molto importante ovviamente per le imprese che sempre di più non si limitano al mercato cosiddetto domestico. Inoltre ti vorrei segnalare che oltre ad essere martedì e quindi dillo condominio. C'è la pagina abituale dedicata al condominio, ma parliamo molto anche di automobili e ad esempio della scatola nera. Sai, questa scatola nera non c'è ancora la norma, ma intanto già le compagnie assicurative propongono questa scatola nera con sconti agli automobilisti. Tutti i particolari, non in cronaca come si usava a dire, bensì nelle pagine di norme e tributi. E quindi a questo punto, con splendida continuità, non mi resta che dirti: traffico! Alessandro Milan, Userno Reggio Calabria Informazione, e mi fermo qua. Insomma, non finiamo più, questo è il concetto. Allora, cari ascoltatori, a proposito di scioperi, visto che abbiamo iniziato con le aggressioni, non gli scioperi ma le aggressioni fisiche per tensioni sul lavoro in Francia ai manager di Air France, Repubblica una notizia interessante con Luisa Grion, racconta cioè che si sta studiando una riforma degli scioperi per evitare che cosa? Per evitare quei venerdì neri classici di Roma, per esempio, dove ci sono sciopere dei trasporti ogni piè sospinto. E la chiave su cui si sta studiando è rappresentanza. Il titolo di Repubblica, pagina 4, è questo: sciopero solo se il 30% dei lavoratori è d'accordo. L'idea potrebbe essere quella di bloccare, per esempio, le micro sigle sindacali e vietare lo sciopero, la proclamazione di scioperi per i sindacati che rappresentano meno del 5% dei lavoratori. Già questo potrebbe essere, come dire, un'asticella da superare. Un sindacato deve rappresentare almeno il 5% dei lavoratori di un'azienda. E dopodiché ci vuole un consistente consenso, cioè il 30% potrebbe essere, a questo allo studio, il 30% degli aderenti a quel sindacato deve essere d'accordo allo sciopero. Comunque queste sono ipotesi allo studio. Tornando alla politica, vi segnalo l'incontro segreto, che è molto segreto, tanto che è spiattellato su tutti i giornali oggi, tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Vi vedete, non vi vedete, vi vedete, non vi vedete, non ci vedremo, ci vedremo presto, eccetera. In realtà domenica scorsa si sono visti, questo raccontano tutti i giornali. Leggo da Tommaso Labate a pagina 9 del Corriere della Sera l'incontro segreto Berlusconi-Salvini. Mentre c'è la vicenda sempre Verdini che continua a lacerare i Dem, ma questa è una vicenda diversa che riguarda la riforma del Senato. L'incontro, anche Repubblica lo dice, che c'è stato questo incontro e parla di scontro su tutto Repubblica tra Berlusconi e Salvini. L'unica cosa sulla quale sarebbero stati d'accordo e sarebbero d'accordo è questa: Mihajlovic non va bene al Milan come allenatore. Questo scrive Repubblica. Dunque, guai in vista per Siniša Mihajlovic. Mentre sulla candidatura a Milano del sindaco, Salvini avrebbe detto a Berlusconi, racconta Carmelo Lo Papa su Repubblica, l'unico vostro che accettiamo è Paolo Del Debbio. Torna dunque il conduttore di Quinta Colonna, tanto che pare che Berlusconi tenterà l'ennesimo assalto per convincere un Paolo Del Debbio dubbioso. Staremo a vedere. Aveva detto anche Berlusconi che settimana scorsa avrebbe comunicato il candidato sindaco a Milano, ma la settimana è finita. A proposito di Berlusconi, parla invece Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, viene intervistata da Daniele Manca sul Corriere della Sera, pagina 21, e parla di che cosa? Beh, dell'evento del giorno dal punto di vista dei mercati finanziari, l'acquisizione da parte di Mondadori di RCS Libri, creando questo Mondazzoli, che insomma è stata soprannominata così, ma è abbastanza orrende. Forse Mondolibri potrebbe essere meglio, Mondalibri, Mondolibri, chi lo sa, Mondadori e RCS Libri. Comunque, crediamo nell'Italia, investiamo, contro la crisi bisogna essere grandi, così Marina Berlusconi, che dice questo è un atto di fiducia nel libro, certo, ma anche nell'Italia, nella creatività, nell'intelligenza, nella voglia di conoscere e emozionarsi degli italiani e quindi nel futuro del paese, nella qualità di questo futuro. Il mercato dei libri è in affanno, sì, ma meno di altri, soffre a causa della crisi. Proprio per questo è importante unire le forze ed essere sufficientemente grandi. Ovviamente il nodo è il parere dell'antitrust, e su questo non si sottrae Marina Berlusconi, che dice ci rimetteremo naturalmente al giudizio dell'antitrust. Vorrei però far notare che l'acquisizione comprende sia i libri trade, cioè narrativa saggistica varia, sia la scolastica, che è parte molto importante dell'operazione, e per la scolastica la nostra quota resterà sotto il 25%. Sui libri trade la nostra quota sarà un po' più alta, poco sopra il 34%, ma dipende dal fatto che quello italiano è un mercato molto ristretto. La verità è che non bisogna considerare solo le quote, ma anche, o forse soprattutto, il fatturato. Comunque, dice Marina Berlusconi, le case editrici sono più di 4.000, i testi in commercio 1.000.000, su tutta la filiera sono presenti Gems, Feltrinelli, Giunti, insomma, parlare di monopolio e lascia i puntini di sospensione, come dire, è sbagliato. Così Marina Berlusconi sul Corriere della Sera. Che dire, poi è frenato un pezzo di Sicilia, ma ancora, frana un'altra autostrada, caos Sicilia, noi avremo il presidente dell'Ordine dei Geologi in diretta alle 8.40 insieme a Oscar Giannino. Eccolo qua, lo faccio vedere su Periscope. Frana un'altra autostrada, caos Sicilia. Ma vogliono fare il ponte sullo stretto. Non sappiamo fare i ponti a Olbia, che abbiamo fatto un ponte, avremo anche il sindaco di Olbia, e l'abbiamo fatto come prima, e faceva da tappo per il defluire dell'acqua, l'hanno dovuto abbattere, sennò rischiavamo un'altra tragedia come 2 anni fa proprio a Olbia con diversi morti. E franano le autostrade, ora la Sicilia è spaccata in tre. sotto accusa le costruzioni abusive. Certo, perché siamo abusivi, ci lamentiamo del territorio e costruiamo abusivamente. Ah, che popolo, che popolo. Viva l'Italia e viva WhatsApp. Ebbene sì, perché la carta costa è dedicata a una pagina di Marco Cubeddu, scrittore, su Dimmi che status hai e ti dirò chi vorresti essere su WhatsApp. Che status avete su WhatsApp? Cosa avete scritto su WhatsApp? Io ho scritto "D'altra parte è così". Cosa vorrà dire? Dai, analizzatemi, psicoanalizzatemi, ditemi cosa vuoi. Perché ho scritto "D'altra parte è così"? Forse perché è la prima frase che mi è venuta in mente, non lo so. Una pagina sugli stati. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan and Oscar Giannino! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui. Eccoci qui, caro Alessandro. Iniziano subito a farci entrare in ritardo. Vabbè, comunque. Eccoci, eccoci. Ebbene, ma ci siamo alle 8:20 minuti con Oscar Giannino e con Alessandro Milan, che poi sono io. Caro Oscar, hai avuto 24 ore di tempo, hai pagato il canone, vero? E stanotte, dicevo a mio figlio, iniziamo a mettere le candele, caro bambino. Parla ancora, ma la prima parola che dirà sarà "stato ladro". Ma dai, no. Non papà, non mamma. Mio bambino dirà come prime parole "stato ladro" con la candela in mano, perché ci leveranno la quarantena. Cioè tu stai, tu invece di dirgli papà, papà, no, mamma, io dico "stato ladro, stato ladro". Pensate un po' come crescerà. Come crescerà. Bene, guarda, come crescerà. Bene, bene. Come bene, crescerà il bene. Figlio di Oscar Giannino. No, caro Oscar, ci sono tantissimi argomenti di cui possiamo parlare. C'è una vicenda che ci proviene dalla Francia. Ma l'hai vista queste immagini sconvolgenti? Sconvolgenti, sì, perché sono impattanti. Cioè, il direttore delle risorse umane di Air France, che stava discutendo nel consiglio di amministrazione di un possibile taglio di posti di lavoro, quindi drammi umani sicuramente. Ah. Ecco, questo è quello che è successo in sottofondo. Ecco. Urla, spintoni, strattoni, gli ha strappato la camicia, la giacca, si è dovuto proprio salvare da un linciaggio. Da un linciaggio. Ricordiamo che in Francia sono avvenute più volte in questi anni di crisi episodi di questo tipo, sequestri di manager, eccetera, eccetera. Secondo me bisogna, questa la radio che è di Confindustria, io critico molto i sindacati, ma una cosa la voglio dire. Bisogna rendere atto e ringraziare, secondo me, della responsabilità dei sindacati italiani, che malgrado i punti di PIL persi, milioni di disoccupati aggiuntivi, i punti di reddito persi, noi cose così in Italia non nella si sono realtà viste, non, si sono non le abbiamo mai e viste non si vedranno, si perché spera, credo che alla fine la cultura del, come devo dire, dei limiti, perché qui siamo alla violenza fisica, che hanno i sindacati italiani è persino superiore rispetto a quello che vediamo con i parlamentari, i senatori nell'aula del Parlamento. L'aula del Parlamento, no, scusa, ma se confrontiamo, lì c'è gente che perde lavoro e che rappresenta gente che guadagna niente, e dall'altra parte invece chiaro, una banda di... No, ma devo dire che è molto impattante, cioè vedere effettivamente queste immagini, e come hai detto tu, giustamente in Francia è successo sequestri di dirigenti, la Francia insomma ha anche una storia di relazioni sindacali appunto molto molto, vabbè, poi in molto forte. C'è il mito della rivoluzione, delle grandi giornate di già Parigi. Si parla dei sanculotti, vabbè, e devo dire che la pancia del paese quando leggevo la notizia in rassegna stampa ha detto perché anche noi in Italia non facciamo, no? Noi siamo quelli dell'armiamoci e partite tanto, no? Perché non facciamo la rivoluzione, anche noi dovremmo fare così. Poi magari chi lo scrive c'ha il posto di lavoro tranquillo assicurato, Vabbè, io questo non lo so, no, però io in realtà credo che sia meglio avere una cultura del confronto per cui non si stracciano le camicie, non si picchiano in testa. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. C'è chi scrive, come sul Corriere della Sera, questa potrebbe essere l'immagine, chi ci vede l'immagine del capitalismo del XXI secolo, o chi ci vede invece no, proprio un estremo atto di violenza nudo. Ma no, è una pulsione da sempre presente, diciamo dalla prima rivoluzione industriale. Poi certo, se il dibattito italiano tra il capo della Fiomma e della CGIL era quello venire o non venire a Expo per fare l'assemblea generale della CGIL, capisco anche che molti in Italia dicano bene, però forse è un po' più vero quello che succede in Francia. È vero, c'è il dibattito a sinistra del sindacato tra Camusso e Landini, perché Landini ha detto che Camusso non doveva andare a Expo e Camusso l'ha proprio zittito dicendo ma non dire stupidaggini, certo che dobbiamo stare a Expo, che è la grande vetrina d'Italia, che alla fine è stato un successo, cioè, dibattitone sindacale però. Comunque vogliamo dare il numero 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666 è il numero per i vostri sms. C'è questa cosa della Francia, un'altra notizia dall'estero che oggi il Corriere della Sera mette... fammi dire una cosa però, la Repubblica ha il merito oggi di tirare fuori il fatto che si va verso lo sciopero nei servizi pubblici alla regola del referendum con almeno il 30% dei voti preventivi dei lavoratori, che se facciamo questo è una buona risposta alla Francia. Voglio vedere, oggi è solo Repubblica a parlare, voglio vedere cosa dirà il sindacato, perché il sindacato dirà no, perché non vuole i voti preventivi nello sciopero dei servizi pubblici. Non solo, dice Repubblica che il sindacato che proclama lo sciopero deve rappresentare almeno il 5% dei lavoratori, per evitare i sindacatini, cioè, questo però ai confederali va bene, e sul voto prima che non vogliono impegnarsi, i confederali sono ricordo forti. Che in 17 paesi europei si vota per poter proclamare un referendum, cioè ripetiamo, il 30% dei lavoratori aderenti a un sindacato deve essere d'accordo a quello sciopero, così anche si va, se non sono aderenti si va a votare, se il 30% dei lavoratori dice sì, scioperiamo nei servizi pubblici, si può scioperare. Se no, pensa che troviamo. Io lo metterei al 51. Al 51, Oscar Giannino, nei servizi pubblici 51. Essenziali, sto dicendo, c'è il 50,1, c'è il 50,1, no, sto dicendo nei servizi pubblici essenziali, nel trasporto pubblico, non in tutti, non dico la Fiat, però. Per carità, se no ci ritroviamo ogni venerdì a Roma, ecco, con lo sciopero. Esattamente. Però c'è un'altra notizia che proviene dall'estero, per la verità sono due, ma una secondo me è più importante. Una è la polemica sul riscatto di Vanessa e Greta, e ci arriviamo. Ma la notizia che da oggi il Corriere della Sera in prima pagina, che abbiamo pagato, è questa: l'Italia bombarderà l'ISIS, cioè i nostri tornado bombarderanno in Iraq. Questo è un... No, è uno sviluppo, perché fino a questo momento quei 4 tornado che avevamo mandato in Kuwait per questa sedicente coalizione, in realtà mai impegnati in Siria, solo impegnati in Iraq, si occupavano solo di ricognizione elettronica e fotografica. Adesso, dice il Corriere, nel silenzio generale degli altri, che non se ne sono proprio accorti, gli altri giornali, è vero, pare che inizino a bombardare. Immagino oggi stesso esploderanno le polemiche, perché certo, verrà chiesto, ma il Parlamento ha votato, lo sapeva, eccetera, eccetera. Facciamo la guerra, la Costituzione contro la guerra, per carità, sono tutti dibattiti legittimi, però che vuol dire questo? Cioè, dobbiamo aspettarci qualche modo vuol una ritorsione? Vuol dire che la grande zampata di Putin in Siria, che ha messo nell'angolo il balbettio occidentale e le colpe dell'America, produce sviluppi, perché a questo punto gli occidentali alzano il livello della loro azione vera e non finta, oppure diventano tutti solo amici di Putin, in sintesi. Allora, Oscar Giannino ha detto che abbiamo pagato il riscatto di Vanessa e Greta, non lo dice solo un tribunale islamico, fa ridere, ma però non lo smentisce solo la Farnesina, ma Oscar Giannino lo conferma, abbiamo pagato il riscatto di... Ma secondo me è talmente ovvio che si paghi, ma al di là dell'ovvio, cioè, sennò perché ti dovrebbero giornalisti restituire? Che si occupano di seguire le vicende internazionali quando ci sono riscatti sanno come funziona. La Farnesina ha la linea ufficiale di dire sempre che noi non paghiamo. È chiaro. Nella realtà noi ci affidiamo dei mediatori e facciamo pagare dei paesi arabi amici, che di solito hanno affari in corso con noi, militari o privati, di contratti. Quindi in questo caso una monarchia del Golfo ha pagato i soldi, avendo i contatti diretti, ci ha anticipato un po' spesso di soldi, spesso il Qatar li finanzia, voglio dire, qui i rapitori, per così dire, ci ha anticipato un po' di soldi e noi gli abbiamo fatto uno sconticino su un contratto. Ufficialmente non abbiamo pagato, però è andata così. Abbiamo fatto uno sconto di 11 milioni 15 20 milioni, come la cosa commessa fatta in Qatar. All'italiana c'è anche il ladro dei terroristi sequestratori che si è preso i soldi. Vabbè, sì, qua c'è poco. Mi viene da ridere, c'è poco da ridere. Ma le vicende sono però queste. La domanda che si pongono tutti è: ma che dovevamo lasciarle là? Lasciarle morire? Diciamolo brutalmente. Perché alcuni giornali la pone così, sì, le pacifesse. Queste sono le polemiche italiane. Dette. Il problema è: che dobbiamo fare quando si noi abbiamo da sempre, dagli anni 70, deciso di mediare con le diverse fazioni di terrorismo, che all'epoca non era quello di adesso. Quindi è una linea politica italiana. Io non sono molto d'accordo. Di pagare. I paesi che non hanno seguito questa linea pagano un prezzo, cioè gli Stati Uniti che intervengono militarmente per tentare di salvarli, molto spesso perdono la vita degli ostaggi, perché loro soldi non li pagano, dico, però non si è una posizione politica completamente diversa. Questo sì, questo sì. Ci chiedono l'ascoltatore Daniele, ma perché abbiamo dei tornado incredibile? Perché abbiamo questa, sì, insomma, è la polemica sul fatto, immagino Daniele chiede perché abbiamo le armi, perché abbiamo gli aerei, perché interveniamo, perché vabbè, perché facciamo parte di un'alleanza internazionale, la NATO, della NATO, da sempre, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vogliamo sentirlo Gentiloni sulla questione di Vanessa? No, perché ha detto che non, noi non abbiamo pagato niente. Aveva ma detto. La linea ufficiale è questa, povero Gentiloni. Quanto al tema dei riscatti, ho letto riferimenti e indiscrezioni privi di reale fondamento, eccolo, e in qualche eccolo caso addirittura veicolati da gruppi terroristici. E mi sorprende che a queste illazioni, a queste fonti, sia stato dato da taluno credito. Capito. Senza alcuna verifica. Ma il problema è che lui sta dicendo la verità. Ha pagato la Repubblica Italiana? No, no, ha pagato un emiro del Qatar. Capisci? Questo è. Ha pagato un emiro del Qatar. Ma non lo so se al quale Qatar, poi noi facciamo. Adesso. Vabbè, per dire, però un emiro sì. Il punto è che ufficialmente lui sta dicendo la verità. In realtà abbiamo un nostro gioco di triangolazioni. Facciamo sempre così. Sempre. È meglio non avere equivoci su questo. Allora, si è aperto anche il sinodo. Questo è un altro tema molto fantastico, interessante. Il Papa ha detto, il Papa tutte le volte che apre bocca un pochino stupisce, spiazza. Sì, che... Vabbè, io devo dire, da ieri ho un idolo, ce l'avevo già da prima, però da ieri che è intervenuto al sinodo, ho un idolo, finalmente il Marx tedesco giusto. Marx. Certo, l'unico Marx tedesco è quello con la tonaca, questo al cardinale Reinhard Marx, che è un progressista in realtà per l'apertura dei temi del sinodo, sì. E finalmente io spero che nella scuola italiana si insegnerà il Marx giusto, Reinhard, non credo. Reinhard Marx, comunque il Papa, aprendo il sinodo, ha detto una frase di questo tipo. Vorrei ricordare che il sinodo non è un convegno o un parlatorio, non è un Parlamento o un Senato dove ci si mette d'accordo. Beh, ci, no, si, cioè, mette ci si mette d'accordo, cioè, oddio, al Senato. Qui l'interpretazione può essere doppia, ecco, nel senso che o al sinodo quindi si può fare, compreso gli atti che fanno i senatori italiani, non voleva dire questo. Sicuramente no, il cardinal Barani non c'è al sinodo, il cardinal Barani non c'è al sinodo, oppure la mia interpretazione autentica è quella che trovo nell'intervista al Fatto del cardinale arcivescovo di Perugia Gualtiero Bassetti, che dice: l'omosessualità è una cosa seria, non se ne parla in enoteca. Mi è venuto dubbio, ma quindi il sinodo è un'enoteca? No, no, no, no. Ma cosa, cosa avrà voluto dire secondo te? Non è il Senato. In realtà è un intervento critico per il modo in cui Charamsa, il teologo, nel frattempo partito per Barcellona, ha buttato la bomba, voglio dire, sul sinodo sull'omosessualità, sul sinodo della famiglia, eccetera, sì, eccetera, eccetera. Oh, Oscar, noi dobbiamo dire che parleremo di un tema invece molto interessante dopo la pubblicità: la cura del nostro territorio. Guarda un po', a ottobre piove, guardate un po' in Italia, e ogni volta che piove che crolla, succede? Tutto. Crolla tutto, il dissesto idrogeologico, scopriamo di avere opere costruite a piffero, eccetera, eccetera, scopriamo eccetera che ci sono degli abusi edilizi incredibile, scopriamo che in Sicilia, questo però la politica se lo ricorda sempre, infatti li vuole sempre sanare, questo siamo noi che lo scopriamo, lo so, lei se li ricorda so bene, lo so. Sai quante trasmissioni hai fatto tu, io, tutti quanti qui, come no, su, come no, le sanatorie in Campania, il sindaco di Ischia, è l'ultima sanatoria, si dice sempre l'ultima sanatoria, no, perché in Sicilia è franata un'altra autostrada, adesso la Sicilia appare spezzata in tre, anche lì per colpa di alcuni abusi edilizi. Ce la facciamo però prima sentire due ascoltatori, se sono veloci, però sulla questione Air France, credo. Antonio d'Alessandria, buongiorno, ci chiama Antonio. Sì, buongiorno, buongiorno dottor Milan e dottor Giannino. Dica. Io semplicemente vorrei dire questo, io sono favorevole alla situazione che si è posta lì in Francia. Favorevole proprio in che senso? Voi, ma guardi, cioè lei avrebbe strappato la camicia? Alla reazione, non al fatto di aver saputo la capire, alla reazione noi dovremmo essere un po' più reattivi. Avete detto voi in questo istante che l'Italia crolla sotto la pioggia. No, no, sulla reattività dal basso io sono d'accordo, sulle mani addosso sotto no, le problematiche, però reattivi sì. Perdoni. Mi perdoni, sotto le problematiche, sotto i nostri politici, i nostri dirigenti hanno di gran lunga superato Maria Antonietta. Allora noi dovremmo imparare qualcosa dai francesi. Mangino brioche. No, lui dice tagliargli la testa. No, sì, certo. No, lui dice tagliargli la testa. Io vedevo di Maria Antonietta hanno superato di gran lunga il mangino brioche. Quindi due teste bisognerebbe tagliare loro. No, io sono d'accordo sulla reattività dal basso, non sono d'accordo sulle violenze, ma c'è modo di farlo con reattività dal basso, sono d'accordo con lei senza alzare le mani. Comunque, grazie Antonio, è che siamo di corsa. Sentiamo anche Sergio dalla provincia di Varese. Sergio, buongiorno. Buongiorno, io volevo solo dire una cosa, che quello che è successo in Francia in Italia non potrebbe mai succedere, perché o non si tagliano i posti di lavoro inutili nei carrozzoni di Stato, e infatti poi salviamo l'Italia, oppure lei. Si danno, come ha fatto l'Italia, 9 anni di cassa integrazione e stanno tutti tranquilli. Bravo. Però pagano i cittadini. Bravo. E quindi questa è la rivolta che bisogna fare. Bravo. Grazie Sergio. C'è Giannino che qua gongola, esulta. Ha ragione, ha ragione il nostro qua, io mi ricordo che Air France non è solo privata, c'è una quota pubblica, il 16%, il 20%. Air France era quella che doveva salvare l'Italia. Esatto, nel frattempo ne hanno buttati fuori 10.000 in questi anni e altri 2.009 adesso. Ah, ecco, vabbè. Senti, prima di andare in pubblicità vogliamo... Perché è pubblica, quindi non è efficiente, non so se è chiaro. Com'è che diceva tuo figlio? Stato ladro, stato ladro. Va bene, prima di andare in pubblicità però vogliamo da oggi introdurre una piccola chicca. Eh sì. And the Oscar goes to... Ebbene sì, da oggi daremo il nostro Oscar. Vabbè, allora, io lo do ad Oscar. L'Oscar è, diciamo, il nostro premio ideale su cosa abbiamo letto sui giornali. Tu qua chi lo dai oggi? Io lo do proprio a tutti coloro che hanno fatto gli abusi edilizi in Sicilia. Non quello, per carità, che magari si è condonato una mansarda, cosa che non va bene. Però capisco che condonare una mansarda non è che fa sbancare una collina e franare tutto su un'autostrada. Ma bravi, bravi, facciamo gli abusi edilizi, poi crolla il nostro territorio e ci lamentiamo perché noi siamo piagnoni. L'Oscar. Però il mio Oscar, su quello che ho letto oggi sui giornali, va alla lettura di Pierluigi Battista al Corriere della Sera, che ricorda a tutti i naysayers, quelli che dicono no, la globalizzazione è sbagliata, le multinazionali, le imprese, il capitalismo affamatore, colpisfero, perché noi in 3 anni abbiamo diminuito di ulteriori 200 milioni di persone nel mondo, coloro che sono nella povertà assoluta sotto 1,9 dollari al giorno, altri 200 milioni e siamo al minimo storico e continuerà. Rassegnatevi, leggete Pierluigi Battista, il mercato, le imprese, la libertà, non i governi, non lo Stato, non i tassatori, sono la via per battere la povertà e diminuire le diseguaglianze. È così! Questo è poco da Marx, da cardinale. Questo Marx è da cardinale, Reinhard Marx, che è quello da buono. Dammi retta, è quello buono. Allora, dopo la pubblicità, state con noi, Oscar Giannino, Alessandro Milan. Avremo il presidente del Consiglio Nazionale Geologi e il sindaco di Olbia. State... Siamo qui e sono le 8:39 minuti, caro Oscar. Eccoci Giannino. Qua, attenti. Eccoci. A noi due. Allora, diamo la parola a due ascoltatori, per gli ospiti. Vittoria ci chiama da Milano. Buongiorno, Vittoria. Sì. Dica. Sono qua, buongiorno. Eccoci. Grazie per parlarmi. Allora, due cose. Primo, un accenno velocissimo su ieri sul canone. Ho un piccolo bed and breakfast. La Rai ha il coraggio, perché ho una televisione, di pagare 480 euro di canone. Come 480? Ah, perché cosa, esercizio commerciale? Esercizi commerciali, come no? Ma che centro commerciale? Ma no, si figuri, ma lo so, ma lei ha ragione. Guardi, ma lei lo la paga? Mia solidarietà, le posso dire semplicemente, no, che... No, io non pago, io pago solamente il canone normale. Perché sono una pensionata. Due camere destinate a un piccolo bed and breakfast, una roba da pazzi. Sì. E la prendono come se fosse il Grand Hotel. Chiuso. E va bene, su questo guardi, sono d'accordo anche io con lei. Per una volta non dai ragione allo Stato tassatore. Ma che per una volta? Capito. Vittoria, poi che voleva dirci, a parte il canone? No, mi auguro che tutti quelli che hanno il bed and breakfast facciano come me. Certo. Seconda cosa, per quello che riguarda gli 11 milioni di euro che abbiamo pagato, forse, per queste signorine che hanno pagato per noi, non oso dire, sì, abbiamo pagato tutti quanti, l'ha pagato lo Stato, l'ho pagato io, l'ha pagato lei, dottor Giannino, il conduttore, tutti, persino mia nonna l'ha pagato, perché... Sì. Ecco, sarebbe un gesto bellissimo che lo Stato chiedesse una rata, un mutuo, chiamatolo per la vita, a loro. Ragazzi, però 11 milioni di euro è faticoso. Euro per tutta la vita. Però tutta a titolo vita. Simbolico. A titolo simbolico. No, in Giappone lo fanno, no, in Giappone l'hanno fatto. Ti stavo dicendo che fatto. Ci sono paesi in cui... Ti salvano e poi ti mandano il conto a casa. Scusate, noi con l'elisoccorso, anche in Italia funziona così, per sì, il soccorso alpino. Ragazzi, però 11 milioni di euro, ma anche in quel caso non paghi tutto, una vita. Paghi una quota. Una quota. Perché lo Stato, tramite l'Emiro, in questo caso, in realtà ti ha salvato. Va bene. No, ma è un'ipotesi, in Giappone lo fanno. Grazie Vittoria. Mario da Verona. Sì, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo fare alcune considerazioni sulla possibile modifica alla legge sullo sciopero. Si faccia una, per cortesia, una, la più importante. No, ma semplicemente questo, sarebbe forse opportuno che una radio come la vostra di servizio spiegasse che prima di fare un'azione di sciopero in un'azienda ci si impiega un mese. sì. un mese. Sì. Quindi intendo dire, se si ha una buona dirigenza aziendale, credo che sia un periodo sufficiente a risolvere il problema. Mario, al volo, guardi, lei sa meglio di me, chi non ha firmato i contratti o le piattaforme d'intesa come i sindacati di base all'ATAC, dove c'è un grande contratto di ristrutturazione in corso, è libero, essendo non vincolato all'intesa, di chiedere tutti gli scioperi con il preavviso, di farli, a cui aderiscono anche i non iscritti, come avviene a Roma, e questo no, ma non ha importanza. Ha importanza, guarda, perché agli effetti della legge 142, che non è in grado di impedirla, bisogna riflettere dopo tanti anni sul caos e la paralisi. Tra una protesta e l'altra non possono passare meno di 10 giorni. Quindi anche il fatto che si fa un venerdì sì e un venerdì no, capito? No. Quindi, assolutamente sì, vada a vedere il numero, legga oggi Sergio Rizzo articolo sull'ATAC, il numero di blocchi avvenuto con le siglette che si alternano a dichiararli. Quindi la legge 142, che è più avanzata di altri paesi europei, non consente gli scioperi ferroviari a oltranza nazionali come in Germania, non va bene per le garanzie agli utenti sui servizi pubblici. Quindi soglie minime di rappresentanza, A, B, voti preventivi di una percentuale di lavoratori che Giannino vorrebbe mettere al 50 più 1. Ma già il governo già dice allora, 30, 30 il governo non è male, dice 30. Però io, ringraziando Mario da Verona, vogliamo introdurre gli ospiti per approfondire. Allora, sull'Italia che frana. L'Italia che frana. Intanto salutiamo Gianvito Graziano, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Buongiorno presidente, eccoci qua. Buongiorno a voi. La domanda che le facciamo brutalmente, la mia prima domanda è questa: c'è il dissesto idrogeologico, lo scopriamo a ogni piede sospinto, ogni pioggia battente, ogni settembre-ottobre. Mancano i soldi per sistemare il territorio italiano? No, abbiamo per tantissimo tempo pensato e ci siamo un po' trincerati dietro la mancanza di denaro. Abbiamo ripetuto una sorta di mantra che per risanare l'Italia ci volevano 44 miliardi di euro e quindi non ce li avevamo e quindi in qualche modo non si faceva nulla, e questo vale da quando era ministro dell'ambiente la Prestigiacomo, perché questa cifra venne allora. dal ministero allora. E invece diciamolo che non è vero, non è vero, ci sono questo. Quanti soldi ci sono quindi? Ma allora ci sono, intanto dalla struttura di missione ha immediatamente trovato solo un anno fa 2 miliardi e 3 di soldi non spesi, sempre presso il Ministero dell'Ambiente. Che già non è poca roba. Queste somme non sono state ancora del tutto spese, perché di fatto poi manca una vera e propria progettualità, cioè non abbiamo progetti che riescano a coprire. Cioè questo è incredibile, cioè abbiamo i soldi Oscar, ma mancano i progetti. Questo è lo Stato, caro mio, quello che difendi tu, la pubblica amministrazione italiana, perdona, il livello inadeguato della capacità tecnica, della progettualità. Sono l'ultimo a poter difendere la pubblica amministrazione italiana. Ma io non è che la condanno in generale, però stiamo parlando col presidente dell'Ordine dei Geologi, che è nell'organo nazionale incaricato di assicurare l'Italia, infatti un po' parafrasa anche questa espressione, ci dice i soldi ci sono, ma chi li dovrebbe fare, presidente, questi progetti? Allora, dovrebbero farlo ovviamente gli enti locali principalmente, ma anche province una volta, ormai non più, e le regioni. Ognuna di loro ha ogni amministrazione ha i propri problemi, soprattutto gli enti locali, comuni piccoli, non hanno né le risorse finanziarie per poter dare un incarico all'esterno, potrebbero trovarle, ma molto spesso il sindaco non si vuole impegnare, non si vuole esporre, perché se queste somme poi non rientrano la Corte dei Conti va. Ma poi non hanno neanche le risorse tecniche, probabilmente, presidente. Soprattutto esattamente non hanno neanche le risorse tecniche. Lo guardo dal mio punto di vista, ma lo potrei guardare anche dal punto di vista di altri professioni, non ci sono i geologi della pubblica amministrazione, bisogna andare assolutamente fuori. I progetti preliminari sono un grande vulnus nella progettualità, nella filiera. Il primo passo importante della filiera non sono progetti, diciamoci la verità, molto spesso sono dei semplici fogli di carta con qualche schizzo e qualche disegno. Questa cosa lei infatti l'ha denunciata a dire, altro che progetti, sono tre fogli con due appunti. Ma sono quindi non se ne esce però. Non se ne esce appunto, perché questi soldi come si possono sbloccare, voglio dire, visto che ci sono? Allora, la struttura di missione ha creato un fondo di progettualità, ma le somme in questo momento non sono ancora disponibili per problemi burocratici di approvazione di Corte dei Conti e roba varia. Ma i sindaci potrebbero accedere, qualora non l'avessero nel proprio bilancio, ad esempio la Cassa Depositi e Prestiti. Ma la Cassa Depositi e Prestiti dice, dopo 5 anni cominci a restituirmeli. Siccome la lentezza della macchina burocratica fa sì che spesso l'opera ai 5 anni non è neanche iniziata, i sindaci dovrebbero cominciare a restituire i soldi. soldi. Se non ce li hanno, la Corte dei Conti bussa alla casa del sindaco. Quindi detta così è un perfetto gatto che si morde la coda. È chiaro, cioè, ma tra l'altro presidente Graziano, caro Oscar Giannino, abbiamo un sindaco con noi, una storia che per me è incredibile. Il sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli, che salutiamo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. È una follia quella che abbiamo letto, caro Oscar, caro sindaco. Cioè, 2 anni fa c'è stata una tragedia terribile con diverse morti a Olbia. Si è ricostruito un ponte e lo si è ricostruito uguale a prima, perché mi pare di capire che la burocrazia così imponeva. Risultato: all'ultima alluvione, all'ultima pioggia, avete dovuto abbatterlo perché altrimenti faceva da tappo per l'acqua che non defluiva così. Sindaco, ma cos'è, una storia di pazzia burocratica italiana questa del ponte di Olbia? No, è semplicemente una storia di pazzia giornalistica, perché il ponte non è mai crollato e non è mai stato ricostruito. Oggi anche i giornali regionali, La Nuova Sardegna, fa chiarezza su questa bufala. Era stata ricostruita soltanto il manto stradale che era sopra il ponte, per cui quel ponte ha sempre rappresentato un'ostruzione, chiamiamola così, perché è un ponte di 100 anni che non assolve più alla sua funzione. Però durante l'alluvione del 2013 ci fu solo lo smottamento del tappetino, del manto stradale, che fu ricostruito dalla struttura di missione, qui apro una parentesi, perché la struttura di missione aveva il compito, con il primo finanziamento di 20 milioni di euro totalmente insufficiente a coprire le spese emergenziali, di ripristinare lo status quo ante, ma che era rappresentato dal ripristino della funzione della viabilità. In quella circostanza io scrissi alla struttura di missione, avendo rilevato l'insufficienza della permeabilità del ponte, sì, dicendo: buttate giù quel ponte, visto che la strada è già stata dissestata, buttate giù quel ponte e ricostruitelo con una luce adeguata. E questo non è stato fatto con quei fondi della struttura di missione. Successivamente reiterai la richiesta a chiunque l'abbia reiterata. Non è stato fatto, però, quindi scusi, esatto. Io capisco dire i giornali hanno equivocato, capito, non è stato battuto il manto, scusi, però abbia pazienza, ho ascoltato. Abbia pazienza lei, mi scusi, io l'abbiamo ascoltato, però di fatto lei ci ha dato un'informazione preziosa. Io questo volevo dire, mica la volevo contraddire. Esatto. Cioè, il fatto che comunque segnalata l'ostruzione della luce del ponte, troppo stretta, è rimasto lì. Questo è nostra intenzione, mica prendersela con lei, okay? Certo. Semplicemente dire che nel la corso cura del tempo, territorio è questa. Esatto, tutto qua, ci mancherebbe altro. Anche rispetto alla questione delle progettualità, intanto io saluto il geologo, purtroppo i geologi sono spesso figure professionali sottovalutate, certo. E in questo avete la nostra solidarietà. Noi, per esempio, il nostro studio generale è fatto da un ingegnere idraulico e da un geologo che abbiamo giustamente coinvolto nella progettualità. Però vorrei fare anche una correzione. Io è anni che chiedevo, per esempio, lo potete rilevare anche facendo una semplice verifica su Google, a 4 giorni dall'alluvione, sì, di Genova nel 2011, io scrissi al presidente del Consiglio dei Ministri, al prefetto, dicendo: guardate che noi in cassa abbiamo 40 milioni di euro, abbiamo i progetti pronti, liberateci dal patto di stabilità. Risposta e no, noi risposta utilizzeremo no, quei soldi. Risposta perché no. Scrissi: non voglio essere c'è il patto di stabilità, sindaco, morti della mia città. Allora il sindaco ci spiega che anche i ponti che andrebbero fatti altrove meglio non si riesce a farli, i soldi quando ci sono da spendere non si riesce a spenderli, e il presidente dell'ordine dei geologi: i soldi ci sono a livello nazionale, ma non ci sono i progetti. Ma non ci sono i progetti. Quindi se ci sono i progetti non si può sforare il patto di stabilità. un autunno di abbastanza preoccupante. Speriamo senza vittime, senza cose. Ma questa è la fotografia da livello nazionale a Olbia. Grazie al sindaco di Olbia, grazie al presidente dell'Ordine Giorgio. Tutto siamo abusivi, cioè ci sono gli abusi edilizi di questo, insomma, perché noi in Italia siamo maestri negli abusi edilizi. Lo Stato, come vedi, ancora una volta non può fare lezioni. Non può fare lezioni. Perché lo Stato è il problema, non la soluzione. Eccolo lì. Ci sono altri ascoltatori. Luca dalla provincia di Treviso. Buongiorno Luca. Sì, ciao Giovanotti, buongiorno. Grazie Giovanotti. Una domanda molto breve, vi lascio il tempo alle vostre discussioni. Io mi chiedo quanti geometri, quanti architetti bisogna avere in un comune perché si riesca a realizzare da parte del comune un progetto e deve essere sempre delegato all'esterno. Grazie Luca. Lei lo sa che la risposta dipende da quanto diverse e frazionate tra loro sono la maggioranza e l'opposizione in Italia. Questa non è una consulenza tecnica. Qualcuno non si nega mai una consulenza a qualcuno. Però il ponte di Olbia per esempio aveva 100 anni, certo. Ecco, ci sono anche delle problematiche di questo tipo. Ce la facciamo anche Alberto dalla provincia di Monza e Brianza. Alberto, buongiorno. La provincia di Monza e Brianza, eccoci qua. Io volevo fare una postilla sul fatto dell'Air France e dei disordini che ci sono stati, no? Quindi voglio dire, è vero sì che la violenza fisica, questa sono il primo a dire che è la cosa sbagliata di questo mondo. Però se tu ti presenti in un'assemblea fatta di molte persone che sono lì ad aspettare una conferma, per la verità sono loro lavoratori che hanno fatto irruzione, non è proprio come dire, però la sostanza, però il problema è che qui si sta parlando non di pochi posti di lavoro, qui si parla di una massa enorme di persone che si gli viene prospettata comunque. Solidarietà. Ma è chiaro, Alberto perché dobbiamo chiudere. La realtà è che da noi non succede, anche perché ci sono i talk. Tanto siccome ci sono i talk, sono tutti collegati di fronte ai disoccupati. Non parlare male dei talk che poi ti invitano e non ti invitano più. Sto dicendo che assolvono una funzione sociale per evitare che picchino i manager, li mandiamo tutti in televisione, come dire. Quindi, ci fermiamo qui, Oscar. Ci fermiamo qui? Sì. No, noi torniamo assolutamente domani e i nostri ascoltatori adesso devono continuare su Radio 24. Mi raccomando, che arriva Mixer 24 dopo giornale radio. A domani. Alino e Giannino, e come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi...